ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Che meraviglia tutto questo mare, mare, mare, mare, mare. Le saline di Sant'Antioco con il mare sulla destra e le lagune rosa per la concentrazione del sale e con i fenicotteri sulla sinistra. Tutto questo mare, mare, mare. E forse lo sentite già il profumo del mare, forse qualcuno di voi riesce anche a intravedere uno scorcio, le lagune rosa, una spiaggia bianca. Siamo in Sardegna, lo avrete già immaginato, e oggi pedaliamo nel sud di questa terra, nella parte sud-occidentale, per proporvi un itinerario cicloturistico facile. Non è scontato trovarlo in questo territorio, un itinerario da prendere in considerazione anche per i mesi meno caldi, perché no, quelli autunnali. Ne parliamo con Alessandro Cresto di Dolce Vita Bike Tours. Buon pomeriggio Alessandra, a te e tutti i radioascoltatori. Tour operator che si occupa di itinerari cicloturistici in Sardegna. Vogliamo parlare in particolare di un percorso che parte da Sant'Antioco, un itinerario molto suggestivo lungo la costa. E dunque partiamo da qualche informazione tecnica, qualche coordinata: da dove parte, dove arriva, quanti chilometri e qual è il dislivello. Stiamo parlando di un itinerario di 6 tappe per un totale di 128 chilometri, e vale a dire una media di 26 chilometri a tappa, 180 metri di dislivello. Quindi per chi pratica un minimo di attività di cicloturismo si renderà veramente conto che è un itinerario alla portata di tutti. Un percorso adatto anche alle famiglie con i bambini? Assolutamente sì, noi abbiamo tutto il necessario, o meglio il mercato offre tutto il necessario a che una famiglia possa svolgere questa attività in totale sicurezza. Quindi abbiamo i mezzi necessari per bambini, si può dire da 0 anni. Faccio l'esempio del carrellino biposto che viene trainato dalla bicicletta del papà o della mamma, per poi passare al follow me, che è uno strumento molto utile a partire dai 4 agli 8 anni, che permette di collegare la bicicletta del bambino a quella dell'adulto, del genitore, e poi le bici di vari tipi per arrivare fino alla bici d'adulto. E poi c'è anche l'opzione bike per chi magari non vuole faticare troppo, no? Assolutamente, quando anche i dubbi dei più reticenti cadono di fronte alla bici pedalata assistita, che apre veramente le porte a tutti quelli che anche forse giustamente si pongono la domanda: ma ce la farò? Quindi non bisogna essere particolarmente esperti né particolarmente allenati o sportivi, ma semplicemente desiderosi di voler viaggiare, di conoscere un nuovo territorio. Splendido, raccontacelo allora, lasciaci immaginare questa terra. L'itinerario si sviluppa nell'angolo sud-occidentale della Sardegna, che non è assolutamente conosciuto come dovrebbe. Immaginando la mappa della Sardegna, ci sono due isolette nell'angolo sud-ovest che si chiamano San Pietro e Sant'Antioco, e l'itinerario parte proprio da lì. È pieno di suggestioni, per esempio si può andare a Carloforte visitando il monumento naturale delle Colonne o la spiaggia della Bobba, due piccole perle, ma non solo, perché anche ci sono le saline di Sant'Antioco con i loro fenicotteri, un passaggio veramente bellissimo che ti permette di pedalare in totale sicurezza perché è una strada chiusa al traffico, con il mare sulla destra e le lagune rosa per la concentrazione del sale e con i fenicotteri sulla sinistra, per poi arrivare alla bellissima Costa del Sud, che è una sequenza di 20 chilometri di spiagge bianche, mare azzurro, con una strada che corre lungo questa costa, veramente fantastico. Il punto di arrivo qual è? Il tour finisce a Pula, che è una bella località alle porte di Cagliari, a 30 km da Cagliari, con il sito archeologico di Nora e anche la spiaggia di Nora, molto bella. E arrivare a Pula sarà come ritornare un po' alla civiltà, perché è una località un po' più interessata dal turismo rispetto alle altre. È un po' un bel modo per terminare in bellezza questo tour di 7 notti. E ricordiamo che poi in questo tipo di tour, in questo tipo di viaggi, quello che fa il tour operator è anche trasportare il bagaglio da un posto all'altro, perché insomma in 7 giorni portarsi tutto il bagaglio appresso risulterebbe un po' faticoso. Assolutamente sì, quindi i bagagli vengono trasportati dalla nostra organizzazione e i partecipanti seguono il nostro suggerimento di percorso, anche se spesso li invitiamo a prendere loro l'iniziativa. Gli alberghi sono già prenotati, tutto quello che devono fare è semplicemente pedalare e godersi il territorio che stanno attraversando, al ritmo loro, al ritmo che pensano che sia migliore per loro, quindi partendo la mattina per fare questi chilometri che abbiamo detto, una trentina di chilometri, si ha veramente tutta la giornata a disposizione, quindi si può affrontare la tappa in totale tranquillità e sicurezza. Qua in Sardegna splende sempre il sole, anche quando è il caso di far piovere sul cuore. La Sardegna, lo sappiamo, è bella sempre, quindi un tour consigliabile anche a settembre, ottobre, perché no, anche novembre. Soprattutto io direi tutto l'anno, tranne se possibile il mese di agosto, che ovviamente per varie ragioni del caldo, del traffico che un po' aumenta, è inevitabile, ma soprattutto i mesi primaverili e poi settembre-ottobre è veramente un tour fantastico dove almeno una volta al giorno si può trovare una spiaggia praticamente deserta tutta per noi. Quindi, soprattutto poi in questa situazione di emergenza sanitaria in cui dobbiamo evitare assembramenti, in cui dobbiamo essere socialmente distanziati, può essere anche utile sfruttare mesi diversi, no? Da quelli canonici di luglio ed agosto, e quindi insomma potrebbe davvero essere un'occasione, soprattutto in Sardegna, insomma il clima tra l'altro lo permette. Questo è quello che noi operatori del settore ci auspichiamo, anche perché si parla tanto di questa destagionalizzazione della stagione turistica. Noi siamo tra i pochi che riusciamo a lavorare 9 mesi all'anno in Sardegna, mentre purtroppo la maggior parte degli operatori che si occupano del turismo classico, il turismo balneare, si fermano a 3-4 mesi. E inoltre il cicloturismo ti permette di facilitare i restringimenti naturali che ci stanno imponendo in questo periodo post-Covid, e quindi dovrebbe essere un settore al quale dare assolutamente la massima priorità. E per concludere un suggerimento culinario? Quanto tempo abbiamo a disposizione? Perché qua veramente abbiamo tantissimi, tantissimi spunti da seguire, partendo dal couscous e la focaccia di Carloforte, passando poi per le fattorie didattiche che dietro prenotazione ti propongono laboratori dei ravioli o laboratori del pane che poi consumi da loro a pranzo, senza dimenticare che nei primi 2 giorni del percorso si attraversa quella che è cosiddetta la zona del Carignano. Ci sono circa una decina di cantine che si sono proposte sul mercato ultimamente, hanno vinto con delle etichette anche dei riconoscimenti, quindi insomma ce n'è veramente di tutti i gusti. E il tuo piatto preferito qual è? Il mio piatto preferito sono i culurgiones. I culurgiones, che sono un tipo particolare di pasta, una specie di gnocco ripieno con patate e menta, e sono veramente eccezionali. Non sono tipicamente di questa zona, ma si possono assolutamente provare in un viaggio in Sardegna. Grazie allora ad Alessandro Cresto, buon pomeriggio. Grazie a voi. L'amo così, senza alcun orpello. Sarà pesante come un cancello, ma nel tempo non mi ha mai tradito. Tra me e lei, non mettere il dito. Alessandro Ricci, Borracce di poesia. E sicuramente c'è chi è affezionato alle proprie vecchie bici che non tradiscono mai, ma noi torniamo a parlare di chi le bici le vuole acquistare con un aggiornamento sul bonus bici, lo sconto del 60% fino ad un massimo di 500 euro, una misura che ormai conoscerete, se ne sta parlando tanto. Buon pomeriggio, Piero Nigrelli, responsabile del settore bici dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori di Confindustria. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto voi avete calcolato quali sono sono state, qual è stato il boom di vendita di biciclette in questo periodo? Ecco, partiamo da questi vostri dati. Una situazione per noi straordinaria, non è mai successa una situazione di vendite del genere, che abbiamo quantificato dal 5 di maggio, giorno di riapertura dei negozi, al 5 di giugno, in 540.000 bici, ben 200.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le motivazioni sono almeno tre. La gente, dopo 2 mesi, le persone avevano proprio voglia di stare all'aperto, e potendo andare un po' oltre i 200 metri oltre casa, la bicicletta rappresentava un ottimo veicolo di spostamento, con il sicuro sul distanziamento sociale, con la possibilità di godere le bellissime giornate che abbiamo avuto dal 4 di maggio in avanti. Poi abbiamo avuto un riscontro da parte di cittadini che hanno deciso di muoversi in maniera diversa rispetto al passato, quindi acquisti di biciclette con maggiore consapevolezza sul veicolo ricercato, e lo abbiamo anche rilevato in comuni che non avevano il diritto all'incentivo. E infine, terza e ultima ragione importante, questa possibilità di ottenere l'incentivo all'acquisto da parte del governo. Sull'incentivo c'è però preoccupazione da parte di chi ha acquistato il mezzo o da chi lo deve acquistare, visto che la piattaforma sul sito del Ministero dell'Ambiente non è stata ancora pubblicata. L'indicazione qual è? Quella di dare priorità alla fattura o la data di caricamento sulla piattaforma? Sì, le indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente sono proprio queste, quindi si darà priorità alla data di fattura ricevuta da parte del negoziante. Valuteremo nel corso delle varie iscrizioni, delle varie richieste di rimborso, l'entità e l'ammontare di questa quota di incentivi richiesta dai cittadini. 120 milioni sono tanti e già il Ministero pensa a un rifinanziamento. Tuttavia il fondo comunque rifinanziato sarà finito, e quindi a un certo punto finirà. Questa entità di incentivo e di rifinanziamento tuttavia ci fanno pensare che moltissimi cittadini saranno soddisfatti e rimborsati di questa possibilità, di questo incentivo, di questo acquisto. Quindi voi non temete un click day? No, ci sono delle procedure come lo SPID, ad esempio, che garantiranno un accesso al sistema più ordinato e più controllato. Dopodiché c'è questa regola della data di fattura, e quindi anche lì non c'è da preoccuparsi, non c'è bisogno di avere questa preoccupazione di una corsa all'incentivo. Poi comunque abbiamo avuto ampie rassicurazioni dal Ministero che il portale sarà in grado di assistere tutte le persone che accederanno. Ecco, portale che dovrà essere attivo tra qualche settimana, così ha detto anche qualche giorno fa il Ministro Costa, e poi ci sarà una fase 2 con lo sconto applicato direttamente dal venditore, ma potrebbero esserci anche delle novità per quanto riguarda il contributo. Quali sono le ipotesi che si stanno formulando? Abbiamo ipotizzato che si possa pensare a una riduzione dell'incentivo, laddove però i negozianti potranno a loro volta contribuire con un loro incentivo personale, per cui per arrivare poi alla fine a una quota molto simile a quella attuale, con l'obiettivo e la speranza di utilizzare questi fondi ancora per più tempo, ancora più a lungo, e quindi dare riscontro a questo incentivo ancora più persone. È vero che le bici stanno finendo e che quindi l'offerta non riuscirà a stare dietro alla domanda? Non possiamo dire questo, tuttavia, data la straordinarietà dell'evento, della situazione, delle motivazioni che hanno portato tutte queste persone in negozio, possiamo dire di essere stati sorpresi, e quindi la nostra capacità produttiva e distributiva è fortemente messa in crisi. Questo sì, lo possiamo dire tranquillamente. Vuol dire che siamo di fronte a un cambiamento, vuol dire che siamo di fronte a nuove prospettive, vuol dire che siamo di fronte a una nuova consapevolezza dei cittadini, per cui certamente l'industria e la distribuzione si attrezzerà per poter far fronte a questa rinnovata o nuova o innovativa voglia di spostarsi delle persone nelle nostre città. E grazie a Piero Nigrelli di Ancma. Ci fermiamo qui, riascoltateci su podcast. Grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Buona bici a tutti.